Va bene, allora iniziamo. Innanzitutto ringraziamo la Calusca che ci ospita e siamo molto felici di presentare l'ultimo lavoro di Luigi Gerosa. Siamo felici e orgogliosi di poterlo presentare, che come gli altri suoi lavori precedenti esprime le qualità di studioso di Luigi, ma di questo parlerà Mantovani. Questo è il primo incontro che facciamo, poi il libro sarà presentato in altre sedi, a Genova, a Torino, a Roma. E bene, quindi non tolgo spazio e tempo alla presentazione e lascio la parola a Mantovani. Alessandro. Buonasera a tutti, ringrazio anch'io tutti quelli che sono intervenuti e siamo qui, come ha detto lui, Federico, per presentare l'ultimo lavoro di Luigi Gerosa, da lui ultimato poco prima di lasciarci molto prematuramente il 18 gennaio di questo anno. Lo facciamo, e uso il plurale non perché sia un plurale majestatis, ma perché mi riferisco alla Fondazione Bordiga di cui faccio parte, con dei sentimenti un po' contrastanti, perché da una parte siamo molto fieri di poter presentare un lavoro della qualità scientifica a cui Gerosa ci aveva abituato, dall'altro però è chiaro che la sua mancanza qui non solo è difficile da accettare, ma prendere il suo posto, presentare un lavoro che solo lui avrebbe potuto esporre nel modo migliore, è una responsabilità che è molto grande. Io tenterò di farlo nel modo più dignitoso possibile, ma devo finora chiedervi di essere indulgenti. La materia è molto complessa e la parte, dopo la esporrò, la parte su cui io insomma ho una piccola competenza che non posso paragonare a quella di Gerosa riguarda gli scritti di Bordiga, molto meno la questione dei quaderni economico-filosofici invece, che è gran parte del saggio introduttivo di Gerosa. Ma comunque, prima di passare all'esposizione del volume, che qui però non vedo, chiedo magari a qualcuno poi per favore di portare una copia, dire qualcosa su Gerosa. Scusate, lo chiamo Gerosa anche se mi verrebbe da chiamarlo Luigi, perché deve essere conosciuto con il suo nome e cognome come studioso, perché su di lui, ecco perché è necessario parlarne, perché su di lui si è abbattuta quella congiura, maledetta congiura del silenzio, che aveva colpito anche Bordiga, il vero fondatore del Partito Comunista d'Italia, ma credo che non debbo presentarlo qui ai presenti, dire chi era Bordiga. Ma se poi ci fosse bisogno si potrà anche dire qualcosa di più anche su Bordiga. E Bordiga comunque, a cui Gerosa ha dedicato un'intera vita di studioso, è stato per molti anni questo schivo personaggio che si chiama Luigi Gerosa, la colonna portante del comitato scientifico della Fondazione Bordiga, più di ogni altro storico, ha contribuito ad affrancare la figura di Amadeo Bordiga dalla congiura del silenzio di cui ho detto prima, ma anche dalla mitizzazione della storiografia bordighista. La testimonianza principale del suo lunghissimo lavoro di ricerca sono i 9 volumi degli scritti, qui in mano io ho l'ottavo, gli scritti 1911-1926, da lui curati. Il primo volume uscì nel 1996, e l'ultimo nel 2021. Dunque fate un po' di conti e vedrete che naturalmente quanto lavoro. Ci sono solo di introduzione, ci sono qualcosa come 800 pagine. Dunque di gran lunga il lavoro più completo mai fatto su Bordiga. Però ha fatto anche altre cose Luigi. Per esempio, una cosa molto interessante è che lui ha sistemato, dopo che aveva cominciato anche la Liliana Grilli, ha sistemato l'archivio della Fondazione Amadeo Bordiga, che si trova nella casa di Formia dove Amadeo Bordiga ha passato gli ultimi anni della sua vita. Questo è stato un lavoro da certosino, molto, molto paziente, di cui dobbiamo veramente essergli grati, e speriamo che la Fondazione in futuro possa come dire, cominciare anche a divulgare un po' di questo materiale. Non si è occupato solo del Bordiga, diciamo, teorico, politico, ma si è occupato anche del Bordiga professionista. Bordiga era un ingegnere edile, e questo volume Gerosa ha trattato la battaglia che Bordiga ha fatto contro la gentrificazione di Napoli dopo la Seconda Guerra Mondiale, la gentrificazione del centro storico di Napoli. Una battaglia molto interessante da un punto di vista professionale, ma che si collega comunque anche alle questioni politiche. Bene. E non finisce qui, perché come vedrete stasera Gerosa aveva anche tanti altri interessi. Era un grande conoscitore del marxismo, lo dimostra il volume che presentiamo stasera, e poi ha trattato anche, ha curato decine o forse centinaia di biografie per il volume L'Internazionale Comunista nel centenario della sua nascita, dizionario biografico 1919-1923. Quindi era una persona di una levatura scientifica straordinaria, e che occupa nel campo degli studi bordighiani lo stesso posto, possiamo dire, che occupato Arthur Lenning in quelli di Bakunin. Cioè è l'unico in verità che ci ha permesso di conoscerlo in questa forma completa, anche se non completa per tutto quello che è l'arco dell'attività di Bordiga, perché ci fermiamo al 1926, anzi diciamo che poi fino al 1928 anche nell'ultimo volume 9 degli scritti. Quindi capite, è uno studioso di una grande importanza che è misconosciuto, un po' perché lui stesso si sottraeva, no? ma era una persona schiva e modesta quante altre mai, ma anche perché appunto si è occupato di un argomento che purtroppo diciamo è già di per sé un argomento che è stato come dire, tenuto emarginato dalla storiografia del movimento operaio. Allora finisco con questo doveroso omaggio a questa persona che tanto ci manca, non solo come persona ma anche come studioso, e vi vengo a presentare il suo lavoro. Naturalmente quello che ho detto prima porterà via un po' di tempo alla presentazione del libro necessariamente, che è un libro molto complesso, pertanto dovrò semplificare alquanto. Allora guardiamolo, qui c'è scritto Bordiga legge Marx. E poi c'è scritto sotto i manoscritti economico-filosofici del 1844, chiaro riferimento ai quaderni parigini di Marx del 1844, del giovane Marx 25enne. E se apriamo però le pagine e andiamo, qui vediamo un altro titolo, un titolo che non c'è nella copertina, e questo titolo dice: Economia, politica e filosofia nei manoscritti parigini del 1844. E non è un'introduzione ai due scritti di Bordiga che vediamo dopo. Lo è solo in parte, ma è molto di più. È un saggio di oltre 100 pagine che possiamo dividere idealmente in tre parti, anche se queste tre parti non sono diciamo fissate graficamente. Allora, la prima parte contiene una dotta introduzione dei tre quaderni, dei tre dei quaderni 12 o 13, adesso non ricordo, redatti a Parigi nel 1844 da Marx, meglio noti come manoscritti economico-filosofici, e questo Gerosa lo fa sulla base degli studi più recenti e delle edizioni più avanzate, la cosiddetta Marx-Engels Gesamtausgabe, la mia pronuncia tedesca non è un granché, cioè alias la Mega 2, la seconda Mega, no? Ovvero insomma l'edizione completa di Marx ed Engels. Oltre alla ricostruzione di questi tre quaderni, da un punto di vista filologico, molto precisa, c'è una sintesi ed un commento del loro contenuto, dei vari quaderni, per cui ne risulta una vera e propria guida alla lettura dei quaderni di Marx. Questi sono i due aspetti molto complessi che dovremo in massima parte tralasciare stasera, sia per una questione di tempo, sia perché è una materia in cui io non mi muovo con l'agilità e con l'autorità con cui si sarebbe mosso Luigi, perché io qui avevo messo il timer, ma non mi funziona, si è spento. Allora veniamo, vi dirò solo qualcosa quindi su questa parte. Gerosa sottolinea innanzitutto il successo riscosso dai tre quaderni di Marx, che fu in gran parte dovuto, come dire, alla scoperta di un Marx umanista e filosofo, contrapposto al Marx determinista della, diciamo, tradizione teorica stalinistico-sovietica. Piaceva questo Marx giovane agli ambienti genericamente antistalinisti, magari anche democratici, comunque antiautoritari, un nome per tutti il marxologo Maximilien Rubel, nemico del marxismo dogmatico. Piaceva questo Marx giovane in quanto opposto appunto all'economicismo. È stata individuata una cesura, no? Nel marxismo sovietico tra il Marx giovane, i manoscritti quindi venivano considerati poco, e il Marx maturo invece considerato compiutamente marxista. Invece questa tradizione di marxismo diciamo così libertario, democratico eccetera, rivalutava questo Marx giovane. Bordiga a sua volta rivaluta questo Marx giovane, ma con una prospettiva diversa, perché come vedremo per Bordiga non c'è una cesura tra il Marx giovane e il Marx maturo, ma già nel Marx giovane è contenuto in nuce il Marx del dopo. Un aspetto particolarmente interessante e pregevole del saggio di Gerosa è l'analisi del successo, ma anche del travisamento del concetto di alienazione che come Marx lo tratta in questi manoscritti. Un concetto, quello di alienazione, che è entrato a far parte del lessico di correnti filosofiche anche non marxiste, come l'esistenzialismo, la scuola di Francoforte, la French Theory, va bene, e fino alla banalizzazione della psicanalisi, che ne fa un problema non sociale ma soggettivo di liberazione dell'individuo, cancellando l'aspetto storico socialmente determinato che in Marx qualifica il lavoro alienato, e quindi depotenziando completamente la carica eversiva del messaggio di Marx, che collega strettamente la liberazione dell'individuo con la liberazione, l'abolizione del lavoro salariato. E questo è tutto quello che vi ho detto su questo argomento della prima parte, no? E qui ci voleva Luigi per essere più approfondito, però d'altra parte c'è anche una questione di tempo. Veniamo alla seconda parte, cioè l'analisi, la ricezione che Bordiga ha fatto dei quaderni. Allora, i testi raccolti nel volume sono due. Uno si intitola Cardini del programma comunista, l'altro si intitola Tavoli immutabili della teoria comunista di partito. Sono entrambi apparsi su il programma comunista. Allora, per chi non lo sapesse, era l'organo del Partito Comunista Internazionalista, poi dal 1964 Partito Comunista Internazionale, ed erano dei resoconti, resi poi in forma scritta da Bordiga stesso, di riunioni generali tenute da quella piccola organizzazione che si era stretta intorno a Bordiga nel secondo dopoguerra. Questi scritti hanno avuto altre edizioni oltre a questa. Se poi volete ve lo dico, ma per andare veloce non le nominerò in dettaglio. Allora, le riflessioni che Bordiga ha fatto ai manoscritti ce lo mostrano in una veste particolare, cioè nella veste a sua volta di filologo marxiano. Ma qual era la cultura marxista di Bordiga? Almeno fino al 1930, per sua stessa ammissione, egli aveva una conoscenza alquanto sommaria del marxismo, che era basata in gioventù sulla lettura del Manifesto del Partito Comunista, sui pochi testi, soprattutto di Engels, che circolavano negli ambienti della Seconda Internazionale. Questa cultura poi si era arricchita e di molto a partire dal 1917, dallo studio dei principali testi di Lenin e del bolscevismo in generale. Anzi, Gerosa dice, non si era solo arricchita, ma profondamente modificata, e io su questo concordo. Soltanto in seguito si forma una cultura marxista veramente solida ed estesa, ad esempio con lo studio del secondo e terzo libro del Capitale. Questa crescita, diciamo, di conoscenza del marxismo è caratterizzata anche da una evoluzione considerevole nell'approccio, perché malgrado quello che disse Bordiga nel secondo dopoguerra, ricostruendo egli stesso la sua traiettoria, e che ne dicano anche i gruppi che si richiamano a Bordiga, che hanno costruito, ma è stato Bordiga il primo, l'idea, io direi anche il mito, di una continuità senza soluzioni tra le posizioni del 1912 e mettiamo quelle del 1950 o del 1960, cosa su cui Gerosa non condivide, malgrado questo, appunto, un'evoluzione c'è stata, e riprenderemo dopo questo tema. Bordiga, allora ritorniamo allo studio che Bordiga ha fatto dei manoscritti. Lui li affronta nella primavera del 1959, un decennio dopo la prima traduzione che era apparsa in italiano, che era stata quella di Bobbio, che era stata poi ripresa anni dopo da Bobbio stesso e rivista. E questo Bordiga lo fa quando il suo ciclo di studi sulla struttura economico-sociale della Russia si era chiuso, si era concluso. Tra parentesi, questo studio sulla Russia è uno dei contributi più importanti di Bordiga al marxismo, e direi è uno dei contributi marxisti più importanti del secondo dopoguerra a livello mondiale. Allora, però ritorniamo alla lettura dei manoscritti. Nel reperimento delle varie edizioni e traduzioni dei manoscritti, Bordiga si fa aiutare soprattutto da Roger d'Angeville, giovane studioso di Marx, collaboratore anche di Roubel, che fu, sto parlando di d'Angeville e non solo di Roubel come tutti sapete, ma anche d'Angeville fu un traduttore, editore critico di numerose opere di Marx ed Engels, quindi non era il primo venuto, e per diversi anni collaborò con Bordiga strettamente, e una delle collaborazioni è questa. E oltre alle parziali traduzioni dal tedesco che gli venivano fornite proprio da d'Angeville, Bordiga utilizzò la traduzione di Bobbio, che definiva una porcheria, e quella francese del Molito del 1937, che però mancava di uno dei quaderni. Raramente Bordiga ha letto un testo di Marx con un tale scrupolo filologico, ma, nota Gerosa, malgrado ciò, questo studio non può essere considerato una esposizione esauriente dei manoscritti, intanto per l'incompletezza della documentazione di cui disponeva e poi per la dipendenza da questa traduzione francese del Molitor che non comprendeva il primo quaderno. Questo spiega in parte perché Bordiga si concentra essenzialmente su alcuni capitoli, ma non è solo questo, secondo me, ci sono anche altri motivi. Dobbiamo considerare che Bordiga, e questa non è un'idea solo mia, era un anti-intellettualista per eccellenza e ha sempre privilegiato una lettura dottrinale piuttosto che sistematica e filologica, anche se in questo caso è molto filologica in realtà. E quindi gli interessava qualche cosa a lui di questi quaderni. A coronamento della sua analisi sulla struttura economico-sociale della Russia, che Bordiga definisce una società di tipo capitalistico, cosa gli interessa soprattutto? E ce lo dice lui. Io faccio delle brevissime citazioni. Il terzo manoscritto di Marx, stiamo parlando di uno dei manoscritti economico-filosofici, è decisamente programmatico ed espone i caratteri della società comunista. Il marxismo rivoluzionario, un'altra breve citazione, sa quali sono le caratteristiche della società che sarà fondata dalla rivoluzione comunista. Ancora l'ultima citazione. Non vi è teoria della rivoluzione operaia se non si dichiara di essere giunti all'epoca in cui è possibile costruire la descrizione delle ossature della società comunista. Cioè Bordiga si entusiasma alla lettura dei manoscritti perché vi trova la conferma che laddove vi è comunismo non vi è non solo e non tanto la proprietà privata, perché in Russia c'era la terra, era stata resa statale, la proprietà statale della terra e la grande industria, le banche, eccetera, erano proprietà dello Stato, anche se non mancava all'atto di questo anche una parte di proprietà privata. Ma non è quello il problema, non è il problema della proprietà privata quello fondamentale. Quelli fondamentali sono l'esistenza, la presenza della merce, del capitale, del denaro e soprattutto del lavoro salariato, tutte stimmate che nella società sovietica esistevano. Ed ecco l'entusiasmo di Bordiga per questo quaderno di Marx. Quindi la descrizione della società comunista, come l'ha chiamata Kamat, altro militante del Partito Comunista Internazionalista che poi è uscito e credo che molti di voi sappiano poi la sua traiettoria umanista. La descrizione della società comunista, come chioserà Kamat, è un grande contributo di Bordiga al marxismo. Io personalmente ritengo che sia il suo contributo maggiore e più originale. È un contributo eterodosso, badate bene, in un certo senso, perché si ricorderà infatti che Marx, che aveva dovuto lottare contro l'utopismo, contro il comunismo utopistico, lottare, insomma, superarlo, era molto diffidente nei confronti di qualsiasi definizione precisa dei caratteri della società che doveva arrivare, della società comunista. Ma Bordiga si trova in un'altra situazione storica, si trova di fronte alla menzogna del socialismo reale, alla necessità politica di dimostrarne la falsità. Ed ecco allora che lui, Bordiga, trae la descrizione, Marx avrebbe storto il naso, ma forse anche no, vedendo poi il risultato, della società comunista dall'antitesi con i caratteri di quella capitalistica, quelli che Marx desume dalla sua critica feroce dell'economia politica borghese. Ecco, però c'è un punto problematico, riguarda l'opinione di Bordiga, secondo cui già nei manoscritti è presente in nuce tutto quel blocco monolitico invariante che verrà scolpito, sempre secondo Bordiga, dalla storia di lì a 3 anni, nelle pagine fiammeggianti del manifesto. Gerosa dice, ma in realtà nei manoscritti, io concordo con questo giudizio, nei manoscritti Marx è ancora feuerbachiano, ossia non è ancora un comunista, diciamo così, è ancora un sostenitore di un umanesimo naturalismo, si sta avviando verso il comunismo indubbiamente, ma non può essere esatto, nota Gerosa, vedere contenuta nei manoscritti, come invece Bordiga sostiene, la futura elaborazione di Marx. Un'altra differenza che Gerosa sottolinea tra l'impostazione di Marx e quella di Bordiga riguarda il rapporto tra l'individuo umano e la società comunista. Per Marx la negazione della negazione, la fine dell'alienazione del salariato, della mercificazione dell'uomo, eccetera, implica il pieno sviluppo dell'individuo, laddove Bordiga tende piuttosto a vedere nel comunismo la dissoluzione dell'individuo. Bordiga ammette questa differenza, lo dice. Dice nei manoscritti, dice uno di questi scritti che vengono pubblicati qui, nella forma letterale non si trova forse, in Marx intende dire, una espressa condanna dell'individualità personale, ma in un certo modo una sua difesa contro lo stritolamento che la forma capitale mercato moneta fa del vivente umano. Ma Bordiga, teniamo presente, ha vissuto l'esperienza del culto della personalità dei partiti stalinisti, odia l'individualismo borghese, lotta con tutte le sue forze non solo contro l'individualismo, ma anche contro, diciamo così, l'individuo. Sentite, questo penso che sia una cosa che non avete sentito perché fa parte un po' delle mie ricerche, a un amico, in realtà un informatore dell'Ovra, nel 1936 confidava questo, voi sapete, faccio una premessa, che dal 1900, diciamo, è 30 fino al 1942 Bordiga si è completamente astenuto da qualsiasi tipo di attività politica, quindi siamo in questo periodo. E gli dice in una conversazione privata: se domani, che questo agente poi riferisce, se domani si potrà ricostituire una qualsiasi nostra organizzazione politica, mi batterò perché a tutti gli affiliati sia rilasciata la tessera che porta soltanto un numero, non per mantenere il segreto, ma perché tutti si abituino ad essere soltanto un numero. Non si può essere integralmente comunisti che pensando ed operando così, anzi, che pensando ed operando solo così. Ecco, questa è un'innovazione, diciamo così, che Bordiga ha introdotto nel marxismo, se di marxismo in questo caso si può parlare, e mi pare di aver capito che Gerosa la pensava diversamente su questo piano. Kamat ha rilevato in questa posizione delle conseguenze pesanti sulla vita e la concezione del partito. Essa, dice Kamat, ha condotto Bordiga ad attribuire tutto al partito e niente ai suoi membri, che sono degli elementi interscambiabili senza alcuna sostanza se non quella che assegna loro il partito. La domanda di Kamat è: ma se tutti i membri del partito sono degli zero, come può il partito poi essere il custode della scienza di classe? Io lascio questa domanda, eventualmente poi poi magari ne discutiamo, no, perché dobbiamo andare un po' veloci. Abbiamo detto che l'approccio di Bordiga al marxismo ha subito dei cambiamenti. Il giovane Bordiga scriveva, per esempio, che l'adesione ai concetti generali del socialismo non implicava la fede cieca in qualunque frase dei maestri e che il socialismo doveva liberarsi da errori e conflitti interni. Tutte queste frasi scritte di giovanili di Bordiga non sono state non a caso eliminate da Bordiga stesso nei testi raccolti mezzo secolo dopo, per esempio nella Storia della sinistra comunista, un testo del 1964, perché non erano più in sintonia con la sua nuova visione maturata nel secondo dopoguerra. Perché in questa stagione, giunto a questa stagione, Bordiga ha sostenuto che il marxismo sorge all'improvviso, diciamo così, alla mezzeria del secolo XIX, come un blocco monolitico. Quando sono ormai chiari i caratteri salienti del modo di produzione capitalistico. Perciò va accettata in blocco, prendere o lasciare, ed è invariante. Sul concetto di invarianza, dal punto di vista matematico, ci sarebbe da discutere. Ma ecco allora che il fondatore del Partito Comunista d'Italia non a caso si è professato soltanto un modesto ripetitore di Marx, anche se in realtà così non era. Invarianza, dice Gerosa, sulla scorta però di un'interpretazione che era già stata avanzata da un gruppo, diciamo, di, tra virgolette, bordighisti, per abbreviare, bordighisti torinesi, gruppo N+1, non significa necessariamente staticità. Ciò che è immutabile è il sistema funzionale delle leggi del marxismo, ma anche se possono variare le grandezze contenute nei suoi valori. Gerosa si spinge a sostenere che Bordiga ammetteva la possibilità di una continua rielaborazione della dottrina. Cos'è questo campanello? Volevi tenere sveglio la... Vabbè, allora, Gerosa si spinge a sostenere, questo io lo condivido molto meno, condivido tante altre cose, che ammetteva, Bordiga ammetteva la possibilità di una continua rielaborazione nella dottrina alla luce di nuovi materiali, confermandola in un sistema teorico di livello superiore. Ho dei dubbi e vedremo anche quello che dirò tra un momento, ma certo Bordiga, quando si dichiarava mero ripetitore, che lo diceva sempre, civettava un po' e usava un'iperbole. Bordiga comunque classificò gli avversari del marxismo in tre categorie: i negatori, quelli sono i borghesi e non c'è niente da discutere, i falsificatori, ad esempio soprattutto gli stalinisti, e, attenzione, gli aggiornatori, anche quelli sono nemici, perché la teoria non può essere rettificata, aggiornata o integrata. È un blocco, lui diceva, monolitico che nasce alla metà dell'Ottocento e così è e così rimane fino per tutto il ciclo di lotte del proletariato. E qui lo ammette anche Gerosa, si coglie tutta la differenza di fondo tra l'impostazione di Bordiga e quella della Marx Forsun, cioè la ricerca che ha prodotto la Mega 2, che invece punta, poi vedremo fra 50 anni gli altri studi che si faranno, ma punta proprio a mettere in luce la problematicità, il divenire, l'incompletezza continua della teoria marxista, perché non era solo il fatto che Marx non avesse completato tutti gli studi, ma era il suo metodo. Engels gli correva dietro e diceva: smettila, vai, butta giù, e lui diceva sì, però poi continuava ad andare avanti, studiare, rielaborare continuamente, no? Oggi diciamo che la critica oggi di moda tende a sottolineare questo aspetto di divenire dell'elaborazione del marxismo, mentre Bordiga tende a fissare il marxismo, nasce così nel 1847-48 e da lì, diciamo così, non si muove. Ecco. E vengo alla terza e ultima parte di questa esposizione, necessariamente breve, necessariamente anche ingenerosa nei confronti di tutti gli spunti ricchissimi e dotti che Gerosa ci offre in questo volume. In questa terza parte, un terzo circa delle 100 e più pagine, diciamo così, di introduzione, ma che non è un'introduzione ma è un saggio vero e proprio, si sofferma la sua attenzione su una serie di riunioni tenute da Bordiga successivamente, di cui esistono solo delle registrazioni su un nastro magnetico, trascritte e pubblicate, questo è un grande merito, dalla rivista N+1, rivista edita a Torino da un gruppo di compagni, diciamo, tra virgolette bordighisti, uso per abbreviare questo, loro non accetterebbero questa definizione. Qui vi sono molti spunti molto suggestivi, ma non posso trattarli per una questione di tempo. Accenno, poi possiamo riprendere una discussione. Allora, la rivalutazione, anche da un punto di vista gnosiologico, cioè della teoria della conoscenza, che Bordiga fa dell'arte, come forma di conoscenza legata all'intuizione, è intuizione che nella gnosiologia bordighiana ha un'importanza fondamentale. Un altro aspetto è l'affermazione di Bordiga che in un certo senso la natura, attenzione, conosce se stessa ancor prima che appaia il pensiero. Questo può suonare un po' strano, problematica direi da un punto di vista materialista, considerando che Bordiga lo dice della stessa materia inorganica. Concezioni che possono suonare eterodosse, ma che vanno inserite nello sforzo di distinguersi dal diamat, cioè dal dialectic materialism di stampo moscovita, vero? Che retrocede in realtà al materialismo volgare. Allora, Bordiga forse, non so, a mio parere va un po' troppo in là nel cercare di torcere il bastone dall'altra parte. Mi soffermo, questi sono, li ho solo accennati, se volete li riprendiamo dopo. Mi soffermerò invece, prima di chiudere, su altri due temi toccati da Gerosa. Le differenze tra la concezione di Marx e quella di Bordiga rispetto alla scienza borghese. Gerosa non inventa niente, Bordiga stesso a dire, in una delle riunioni in cui abbiamo accennato, che Marx, in qualche sua citazione, è troppo apologista delle conquiste borghesi. Sono parole di Bordiga. Partendo dall'assunto contenuto nell'ideologia tedesca, secondo cui la cultura dominante è quella della classe dominante, Bordiga assume una radicale negazione della scienza borghese contemporanea. Lo schema è questo. Le epoche che producono le grandi scoperte scientifiche, i grandi balzi di paradigma, come direbbe Kuhn, avvengono nei grandi svolti storici, nelle epoche rivoluzionarie. Ora, siccome, dice Bordiga, la borghesia ha chiuso la sua fase rivoluzionaria, essendo diventata una classe parassitaria, sopravvissuta a se stessa, controrivoluzionaria, allora non può più esserci progresso scientifico, è diventata mera ideologia. Faccio una brevissima citazione. Essa va naufragando, la scienza borghese, in una scienza mentitrice ed oscurantista, i cui inganni superano di gran lunga quelli delle classi e forme più antiche. A mio avviso, avviso di Luigi, anche, Bordiga trascura il fatto, che viene invece sottolineato da Marx, che il sistema capitalistico, per la sua stessa intrinseca natura, comporta un rivoluzionamento perenne delle forze produttive, anche se perenne non significa lineare, costante, perché segue un andamento discreto, cioè ha dei momenti di crisi, poi dei nuovi balzi. Pertanto le scoperte scientifiche sono durante tutto il corso del capitalismo inevitabili e necessarie, altrimenti il capitalismo sarebbe già morto. Basti pensare, se vogliamo fare degli esempi, che tra l'altro Bordiga apprezzava tantissimo, la teoria della relatività, già in periodo imperialista, la teoria dei quanti, la decodifica del DNA, eccetera, eccetera. Cioè, tutto è frutto a rigore di un'epoca di decadenza del capitalismo. Però bisogna sfumare queste conquiste scientifiche, Bordiga le conosceva e le apprezzava. Comunque, qualunque cosa noi pensiamo in merito, la posizione di Bordiga conteneva una grande dose di verità. Cioè la privatizzazione della scienza, la sua deturpazione a fini privati, non solo comporta per l'umanità degli effetti distruttivi, dei costi enormi che mai altre società conobbero, ma è anche un ostacolo ad una concezione globale e organica della scienza stessa, come già aveva d'altra parte messo in luce Engels in quegli scritti che noi conosciamo sotto diciamo il titolo globale di dialettica della natura. È qui che Marx e Bordiga convergono. È falsa la pretesa della scienza moderna di essersi liberata da ogni oscurantismo e quindi di costituire una base certa per il futuro. Solo un nuovo e superiore modo di produzione collettivo potrà farlo, potrà abbattere quindi le barriere che anche il capitalismo, che pure è costretto, rivoluzionando costantemente le forze produttive, a produrre nuova scienza, ma anche lui pone delle barriere ad un sapere onnilaterale al servizio della specie umana. E oggi forse, dopo tanti disastri ecologici, dopo il grande business, ci metto dentro anche dei vaccini anti-Covid, eccetera, eccetera, no, se volete, ciò può apparire più chiaro, ma allora, quando lo diceva Bordiga, era controcorrente, perché allora c'era la conquista dello spazio, no? C'erano tutte queste, sembrava che la scienza offrisse una prospettiva all'umanità, no? Senza un rivoluzionamento della società, senza un rivoluzionamento dei rapporti di produzione. L'ultimo tema toccato da Gerosa che affronto, e poi mi avvio a concludere questa brevissima esposizione, è la riproposizione che Bordiga fa di un tema caro a Sorel. Questo accostamento però fra Bordiga e Sorel non è di Gerosa, ma è mio. È quello del ruolo fondamentale dei miti nella marcia della storia. Per lui, per Bordiga, solo la società comunista potrà liberarsi della necessità di un credo. Per la classe proletaria, la quale finché dura il capitalismo non può avere una propria cultura, per la classe proletaria c'è ancora bisogno di una fede, di una mistica, dice proprio Bordiga. E faccio una brevissima citazione. Non abbiamo motivo di trattare come un'offesa l'affermazione che ancora il nostro movimento, fin quando non ha trionfato nella realtà, può essere adeguata a una mistica. E se si vuole un mito, il mito nelle sue innumeri forme non fu un vaneggiare di menti che avevano occhi fisici chiusi alla realtà. Fu la forma in cui in passato si affermarono le ideologie rivoluzionarie. Ancora una volta, l'ortodosso, se lo diceva lui, Bordiga, giocava a fare l'ortodosso, mostra una notevole originalità eterodossa, diciamo così. Qui il concetto di invarianza del marxismo, che era proprio di Bordiga, cioè il marxismo nasce così e rimane così per tutto il corso storico della lotta di classe proletaria, si collega a quello di proprio di mistica, perché per la vittoria, dice Bordiga, è indispensabile che il programma, la tattica del proletariato siano fissati allo stesso modo in cui sono state scolpite le tavole di 10 comandamenti di Mosè, cioè devono essere immutabili, immodificabili, da prima, dal 1848 fino a quando il proletariato vincerà. Perché è necessario che i militanti marcino come un solo uomo, guidati, dice è Bordiga, no? Necessario guidati più che dalla convinzione, dalla fede. Dunque, cosa dice? Dunque i lavoratori non devono fare corsi di filosofia o di altro, ma devono solo combattere per la propria classe. Si disse, dice Bordiga, che io contrapponevo alla cultura di tasca la fede e il sentimento socialista. In un certo senso è così. Prima agire da rivoluzionari, poi capire e dissertare. Perciò al posto dell'individuo, soldato o maresciallo, abbiamo il partito di classe. Questa è una lettera del 1952 di Amadeo Bordiga a Riccardo Salvador, che era un compagno di Schio, da cui io vengo, cittadina del Veneto da cui io vengo. Questo portò la piccola organizzazione che era stretta intorno a Bordiga ad un funzionamento molto particolare che viene chiamato centralismo organico. Cioè, nelle riunioni del Partito Comunista Internazionale le discussioni non c'erano sostanzialmente, erano bandite, perché l'adesione ai comuni principi e al programma e ad un sistema fisso di norme tattiche la rendeva superflua. Se il marxismo è invariante, se il partito deve dotarsi di tavole immutabili, cosa c'è da discutere? Eppure, a poco più di un decennio dalla morte di Bordiga, il Partito Comunista Internazionale, malgrado fosse così piccolo che quasi tutti i suoi esponenti si conoscevano personalmente, deflagrò in una torre di Babele di posizioni diverse. E così Gerosa commenta: con una tale impostazione primitiva, priva di forme e di strumenti per affrontare il dissenso, il giovane Partito Comunista Internazionale non avrà modo di reggere all'insorgere di divergenze al suo interno. L'anonimato servì a nasconderle prima della loro esplosione imprevista e irreparabile. Ma io terminerei. No. Vabbè, io direi che terminiamo qua. Penso che anche come tempi siamo... No, ti sei portato bene. Siano giusti, no? No, volevo dire che chiaramente l'esposizione tocca moltissimi, quindi chiunque voglia fare qualche domanda, l'unica cosa che deve venire qui, perché solo avvicinandosi al microfono consente di registrare tutto il dibattito che può esserci, ecco. Sono interventi, domande? No, vabbè. Buonasera. Allora, una riguarda la questione della scienza, cosiddetta scienza, no? Allora, in uno scritto, adesso non ricordo esattamente quale fosse, Amadeo Bordiga arriva a definire, penso che riguardasse la questione, la cosiddetta questione spaziale, che la viene a definire la scienza borghese americana, in particolare la vinazzata scienza d'America, se non mi ricordo male, il termine era questo. Sto andando un po' a memoria, non sono sicuro che fosse così, ma mi sembra che, nel senso che tendeva a dire che tutte queste famose conquiste in realtà erano delle panzane, cioè la conquista della Luna, dello spazio, eccetera, in realtà non era altro che balistica, che poi lui definiva ballistica con due L, no? E questo era un aspetto che andava sottolineato, e per questo che ce l'aveva tanto con la scienza del borghese, perché allora c'era questa, sembrava che ci fosse questa proiezione inarrestabile a conquiste di ogni tipo scientifico, quando in realtà si trattava semplicemente di comune progresso della scienza all'interno di quello che definivi giustamente la necessità che ha il modo di produzione capitalista di rinnovare continuamente se stesso, di rivoluzionare continuamente se stesso. Viene detto nel manifesto questa cosa qui, non è un'invenzione di Bordiga, tra l'altro. Quindi e questo è un aspetto, cioè, e qui arriviamo però al concetto anche di invarianza. Il concetto di invarianza, è stato citato quelle due credo citazioni di N+1, con cui collaboro anch'io, lo dico così di sfuggita. Il concetto di invarianza, bisogna fare un po' di chiarezza su questa roba qui, cioè nel senso, il sistema capitalistico funziona in un modo invariante rispetto a quando è nato, addirittura non nell'Ottocento, ma addirittura in Italia nel 1200-1300, no? Cioè nel senso che per sopravvivere il sistema capitalista ha bisogno di drenare più valore dal lavoro vivo, se no non è capitalismo, cioè perché non esisterebbe più l'accumulazione del capitale, il lavoro salariato chiaramente, perché è solo dal lavoro salariato vivo, del lavoro vivo che si estrae più valore, che si drena il più valore, e tutte le altre forme che caratterizzano il modo di produzione capitalistico. Però all'interno di questo processo qui, se c'è questo tipo di invarianza, che quindi esiste appunto da ben prima di Marx, all'interno di questo concetto di invarianza ci sono delle variabili che vanno individuate, perché per due motivi. Uno, perché per adottare una strategia, una politica, devi capire cosa è variato all'interno dell'invarianza. Non so se riesco. E perché comunque il sistema muta, si varia, anche rimanendo se stesso, varia continuamente. Perché è necessità, cioè è nel DNA di questo sistema continuare a mutare. Non so se mi sono spiegato. Io direi facciamo più interventi. C'è qualcun altro che desidera intervenire prima? Federico. Paolo, ma funziona ancora sto qua? No? Non funziona più sto? Oh, sì. Sì, funziona. È una cosa brevissima, vorrei che il relatore si esprimesse sull'aspetto, ma non solo storico o filologico, che ha il concetto per Burdiga di partito. Che cosa è questo concetto? Ha una validità intrinseca ancora nella situazione attuale? Questo. Vi sentite? Cioè, non è, diciamo, una domanda che sia nel tema di questa sera, quindi cioè, implicherebbe uscire un po' da quello che abbiamo trattato, no? Mi pare. Comunque, cioè, meriterebbe una riunione solo questo, no? Perché il concetto di partito non è un concetto semplicissimo, no? Partito storico, partito formale, non lo so, cioè. Forse puoi provare a rispondere tu quello che è la tua opinione. Io. No, lui quello che ha fatto. Sì, perché secondo me lui ha fatto la domanda, ma ha anche la risposta, no? No? Non lo so, forse non. Cioè è un tema molto complesso questo qui, no? Non è che non voglio rispondere, però. Ma sul tema del partito, il Novecento ha offerto un dibattito molto ricco, e il modello leninista personalmente mi sembra quello più. Che poi alla prova della storia si è rivelato vincente anche. Poi chiaramente certo è una scienza giovane quella del marxismo e del suo partito, quindi sì, questo è un tema che è stato sollevato più volte, sì, bisogna considerare anche, diciamo, il complesso delle relazioni, no? Mondiali, e quindi la controrivoluzione, e come in Russia è stato afferrato nel rapporto fra le classi, perché poi in Russia esistevano. Sì. No, comunque è un tema vastissimo, basti pensare a tutto il dibattito con la Luxemburg, e proprio, diciamo, l'aspetto che tu sollevavi è a chi si rifà la Luxemburg, che dice, ecco, il centralismo, la dittatura del partito ha portato poi alla degenerazione stalinista, no? Questo è uno degli argomenti che viene sollevato spesso. Chiaramente, insomma, la storia non è che si fa con i sé, poi la controrivoluzione si è appropriata di quella, eliminando fisicamente i bolscevichi che avevano fatto la rivoluzione. Ecco, no, un aspetto che mi veniva in mente, che volevo chiedere secondo la tua opinione, perché parrebbe un Bordiga, diciamo, che è antidialettico nell'affermazione dell'invarianza, no? Cioè, quindi quando Marx dice che ogni cosa è prigna del suo contrario, la scienza borghese è in grado di arrivare fino alla... la domanda. Però sembra difficile, però, che Bordiga, per la sua levatura teorica, non avesse presente, no, questo nodo della dialettica, e quindi di quanto la sua posizione si sia irrigidita per esigenze, vuoi di lotta allo stalinismo, vuoi di condizioni storiche, della battaglia come si è venuta a conformare nella sua esperienza personale, come dice Damen, che c'è un aspetto persino psicologico, appunto, del fallimento della rivoluzione e dello stalinismo, per cui Bordiga si convince che bisogna solo preservare il programma e non c'è altro da fare. Ecco, quindi quanto sia un limite teorico di Bordiga, di concezione, e quanto sia invece un frutto della sua vicenda. C'è qualche matematico qua, perché il concetto di invarianza, da quello che ho capito io, che non sono un matematico, non vuol dire che le cose non variano, no? Vuol dire che ci sono degli invarianti. Non so, c'è qualche matematico qui, qualcuno che ne capisce qualcosa? Io non ci capisco niente di matematica. Comunque non significa che non muta nulla, no? Ma muta, diciamo, secondo determinate regole, da quello che ho capito io. Siccome io non sono un matematico, però questo era il concetto di Bordiga. Non significa assolutamente staticità, è proprio un concetto matematico, l'invarianza, che implica che ci sono degli elementi matematici che sono quelli, però i valori che ci sono all'interno dell'equazione possono mutare continuamente, però rimangono stabili. Alcuni elementi, io non sono matematico, non la so spiegare bene, però è questo. Invarianza non vuol dire immutabilità, vuol dire anzi mutabilità, ma secondo leggi, insomma, come l'ho capita io, che non sono matematico, secondo determinate leggi e secondo determinate proporzioni. È questo, ed è proprio un concetto dialettico in realtà, e quindi non un concetto statico, così come l'ho capito io da ignoranti in matematica, certo. Ecco, no? Però, come tu ricordavi, poi lui ha spesso calcato molto, diciamo, nell'espressione, ad esempio, del blocco monolitico, quindi, diciamo, sì, rispetto all'invarianza, lui, insomma, ha espresso Appunto, qui il concetto proprio di invarianza è quello. Ci sono degli elementi Cioè, per dire, scusami, lui nega che la teoria dell'imperialismo di Lenin sia una evoluzione rispetto al marxismo di Marx, perché lui dice che tutta la teoria dell'imperialismo di Lenin è contenuta già nella teoria della rendita di Marx. Ecco, io non sono d'accordo, è un apporto ulteriore di Lenin, perché muta ovviamente il mondo, mutano il processo reale, e quindi la scienza non può rimanere la medesima. Eh no, il concetto di invarianza però, scusate, si sente. Il concetto di invarianza però non significa che non muta. Io non sono un matematico, ma significa che muta secondo determinate leggi, da quello che ho capito io. Non è una cosa immutabile in realtà, no? È una cosa che ha delle, che può variare secondo determinate regole. Solo che le regole sono scritte, non necessariamente. Cioè, non è una cosa fissa lì come una statua che non si muove, no? Si muove secondo determinate, si muove e si modifica, ma secondo determinate leggi e caratteristiche. Questo avevo capito io, che non sono un matematico. Quindi. Se chi lo sa fare lo faccia, perché è utile. Allora, per avere il plusvalore bisogna che ci sia una divisione, no? Tra il capitale variabile e capitale costante, no? Allora, se il capitale costante tende a zero, cioè, scusate, variabile, cioè lavoro vivo, lo vediamo oggi con le macchine, no? Con il macchinismo ultra, adesso siamo arrivati a programmi che si autogenerano, non hanno più bisogno nemmeno di programmatori. Cassiere di cui non ci sarà più necessità andando avanti nei supermercati, verrà tutto, cioè, e via e via e via, facendo un conto proprio terra. Se si arrivasse al paradosso, non si arriverà mai a una cosa del genere, che il lavoro vivo arrivasse a zero, no? Non ci sarebbe più il capitalismo, sarebbe finito, no? Perché non ci sarebbe più differenza di potenziale. Perché non ci sarebbe più drenaggio di plusvalore. Cioè, drenaggio sia appunto di plusvalore dalla. È come una cascata, no? Ha bisogno di un salto di potenziale. Dall'alto verso il basso, come la corrente elettrica, dal polo positivo al polo negativo, e via dicendo. Ma se non c'è questo passaggio di potenziale, non esiste più il capitalismo. Cioè. E lì, diciamo, l'invarianza è questa fondamentale del capitalismo. La necessità. E anche la dannazione di avere lavoro vivo, cosa che viene negata ogni giorno dal capitalismo stesso, perché ogni giorno vengono espulsi milioni e milioni e milioni di persone dai processi produttivi, anche se ne entrano altri milioni. Oggi il mondo ormai è composto per circa un paio di miliardi di esseri umani da lavoratori salariati puri, poi ci sono tutti senza riserve, eccetera, eccetera, no? Ma se la tendenza è quella, persino nei paesi che hanno avuto uno sviluppo vorticoso come la Cina, tanto per fare un esempio, già oggi ad essere arrivata a introdurre una serie di tecnologie talmente avanzate che anche lì c'è un surplus di manodopera ormai, e se arrivasse al paradosso di arrivare a zero non esisterebbe più il capitalismo. Questo è un po', se vogliamo, l'equazione, la frazione, diciamo così, è meglio dire, la divisione. Ma l'ho molto semplificata, Sì, no. Però ci pone il microfono perché non ti sentono. Secondo il ragionamento, esisterebbe un non capitalismo, quindi la negazione del capitalismo, tuttavia con forma merce, con alienazione, con categorie che sono squisitamente caratterizzanti il capitalismo. Non riesco a capire. No, no, no, paradosso, infatti. Vabbè, come l'imperialismo. Non so, vabbè, siamo fuori dal tema comunque. Nunzio voleva dire semplicemente, secondo me, riguardo al tema dell'invarianza, perché è di questo che stava parlando, che l'invarianza della legge del lavoro, del valore, quella su cui si basa l'esistenza delle merci e di qualunque altra cosa, comporta un cambiamento nello stato di esistenza del capitalismo, perché la caduta del tasso di profitto provoca dei cambiamenti, perché l'espulsione della forza lavoro dal processo produttivo ha un impatto talmente violento sull'esistenza stessa del capitalismo che, se portato al suo estremo, ne compromette perfino l'esistenza. Quindi l'invarianza della legge contempla un cambiamento drammatico della situazione reale. Io penso che Nunzio volesse dire questo, ed è assolutamente pertinente al tema. Qualcuno ha posto una domanda sulla scienza. Sì. Cioè, e lì non abbiamo risposto, abbiamo glissato, che però, no, ma... secondo me, il discorso scienza, oggi come oggi, con lo spettarsi della intelligenza artificiale, balla spaziale, ah, ma si sente la mia voce, ah, racconta, balla spaziale, converge perfettamente all'interno. Posso dire una cosa, forse non abbiamo le capacità e le conoscenze e ci manca Luigi. Capisci? In effetti i problemi che ha aperto questo volume e la presentazione sua avviata e il minimo di dibattito ti apre una voragine. Mi sentono, c'ho una voce che si fuori. Beh, non è che avessimo la pretesa di risolvere queste questioni hic et nunc questa sera, sono questioni che vasto programma. Certo, sì, infatti. È un come dire, un demerito, è un merito. Certo. Dobbiamo studiare di più. Sì, comunque, ecco, quest'ultima cosa che hai detto, che in effetti Bordiga, diciamo, riconosce che non esiste un determinismo tecnologico per cui basta il progresso scientifico per liberare dalle catene l'umanità, no? Perché la scienza è sempre asservita al capitale, quindi chiaramente la scienza non è libera oggi, ecco, quindi è chiaro. Il discorso dei miti è molto interessante anche, che c'è bisogno di miti. Ah sì, quello sì.